Quadriennale d'arte. Non perdere la più importante mostra sull'arte contemporanea in Italia. 150 opere, 99 artisti, le ultime tendenze, i grandi miti del nostro tempo. Al Palazzo delle Esposizioni di Roma fino all'8 gennaio. Quadriennale16.it. Ad alta voce, Piero Baldini legge A sud dello slot di Jack London. Traduzione di Elena Marsi. Freddy Drummond non correva alcun rischio, ma Bill si era innamorato. Era innegabile. E fu proprio questo a mettere in allarme Drummond. Bene. Bill ormai aveva fatto il suo dovere e le sue avventure potevano anche finire lì. Non c'era bisogno di attraversare ancora lo slot. Mancavano solo 3 capitoli per completare il suo ultimo libro, Tattiche e strategie sindacali, e aveva a disposizione abbastanza materiale. Giunse anche alla conclusione che per rafforzare la posizione di Freddy Drummond doveva stringere maggiori legami con il suo mondo. Era ormai tempo di sposarsi e sapeva bene che se non era Freddy Drummond a prendere moglie, lo avrebbe fatto senz'altro Bill Toots, con complicazioni che non osava nemmeno immaginare, tanto erano spaventose. Ed è a questo punto che entra in scena Catherine Van Vorst, anche lei appartenente all'ambiente accademico. Era la figlia dell'unico professore ricco della facoltà, nonché capo del Dipartimento di Filosofia. Si trattava di un ottimo matrimonio da ogni punto di vista, rifletté Freddy Drummond una volta annunciato il fidanzamento. Di aspetto freddo e riservato, aristocratica e conservatrice convinta, Catherine Van Vorst, sebbene non priva di un certo calore umano, aveva le stesse inibizioni di Drummond. Sembrava procedere per il meglio. Eppure Freddy Drummond non riusciva a rimanere del tutto indifferente al richiamo del mondo proletario, né a sottrarsi alla seduzione della vita libera, disinvolta e spontanea che aveva conosciuto a sud dello slot. Con l'avvicinarsi del matrimonio, ripensò ai suoi eccessi giovanili e si sentì attratto dalla possibilità di avere un'ultima avventura, di giocare ancora una volta a fare il fannullone e il compagno spensierato, prima di dedicarsi definitivamente alle aule grigie e alla morigerata vita matrimoniale. A tentarlo ulteriormente, il capitolo successivo di Tattiche e strategie sindacali, rimasto incompleto per mancanza di alcuni dati essenziali che non si era curato di raccogliere. E così Freddy Drummond attraversò lo slot per l'ultima volta nelle vesti di Bill Toots, raccolse i dati che gli servivano e malauguratamente incontrò Mary Condon. Non fu piacevole, una volta tornato nel suo studio, ripensare a questa esperienza. Gli ultimi avvenimenti lo allarmarono ancora di più. Il comportamento di Toots era stato riprovevole. Non solo aveva incontrato Mary Condon al consiglio centrale del sindacato, ma al ritorno si erano fermati assieme ad un ristorante e le aveva offerto una cena a base di ostriche. E prima di lasciarla davanti casa l'aveva stretta fra le braccia, baciandola sulle labbra più e più volte, e le ultime parole che lei gli aveva sussurrato dolcemente all'orecchio con un lieve singhiozzo soffocato, che poi altro non era che un gemito d'amore, erano state: «Bill, mio caro, caro Bill». Freddy Drummond rabbrividì al ricordo. Vedeva l'abisso spalancarglisi sotto i piedi. Era monogamo per natura e guardò con sgomento ai possibili sviluppi della situazione. Doveva risolverla e non c'erano che 2 modi: diventare in tutto e per tutto Bill Toots e sposare Mary Condon, o restare Freddy Drummond e sposare Catherine Van Vorst. Altrimenti si sarebbe macchiato di una condotta assolutamente deprecabile. Passarono diversi mesi, durante i quali San Francisco fu dilaniata dai disordini. Sindacati e confederazioni padronali erano entrati in conflitto e sembravano decisi a sistemare la questione una volta per tutte. Intanto Freddy Drummond scorreggeva bozze, faceva lezione e non si muoveva. Si dedicava completamente a Katrin von Wurst e ogni giorno che passava scopriva in lei nuove qualità da rispettare, ammirare e addirittura da amare. Lo sciopero dei tram lo aveva tentato, ma meno di quanto si sarebbe aspettato. E quando fu la volta del grande sciopero della carne, rimase del tutto indifferente. Il fantasma di Bill Toots era stato messo a tacere e Freddy Drummond si dedicò con rinnovato vigore a un progetto di vecchia data sul problema dei rendimenti decrescenti. Mancavano 2 settimane al matrimonio quando un pomeriggio Katrin von Wurst lo trascinò a visitare un circolo di ragazzi recentemente istituito da un'organizzazione di assistenza sociale che seguiva con interesse. Erano soli con l'autista nell'automobile del fratello di Katrin. All'incrocio con Kearney Street, Market Street e Gary Street convergono, formando un angolo acuto a forma di V. L'auto con la coppia veniva giù da Market Street con l'intenzione di svoltare la base della V e risalire lungo Gary Street. Ma i due non immaginavano cosa stava nel frattempo calando da Gary Street, cosa il destino gli avrebbe fatto incontrare a quell'angolo. Pur sapendo dai giornali che era in corso lo sciopero della carne, uno sciopero di eccezionale durezza, Freddy Drummond in quel momento non ci pensava neanche lontanamente. Non era forse seduto accanto a Katrin? Tra l'altro le stava esponendo in maniera particolareggiata le sue teorie sull'assistenza sociale. Teorie formulate anche sulla base delle avventure di Bill Toots. Lungo Gary Street scendevano 6 carri di carne. Al fianco di ogni conducente sedeva un poliziotto. Un altro centinaio di poliziotti scortavano il convoglio da ogni lato. La processione era chiusa da un corteo di gente, ordinata ma vociante, che si teneva a rispettosa distanza dagli ultimi poliziotti e per diversi isolati occupava completamente la strada, da un marciapiede all'altro. L'associazione dei macellai stava cercando di rifornire gli alberghi e dunque di interrompere lo sciopero. L'hotel St. Francis aveva ricevuto la sua carne al prezzo di molti vetri e teste rotte e la spedizione procedeva ora alla volta del Palace Hotel. Interamente all'oscuro di tutto ciò, Drummond, seduto accanto a Katrin, continuava a discorrere di problemi sociali, mentre la macchina, aprendosi un varco in mezzo al traffico a colpi di clacson, fece un'ampia curva preparandosi a svoltare l'angolo. Un enorme carro, carico di carbone trainato da 4 grossi cavalli, appena sbucato da Kearney Street e diretto verso Market Street, sbarrò loro la strada. Il conducente del carro sembrava esitare e l'autista, procedendo con lentezza, ma ignorando le indicazioni che un poliziotto gli urlava dal centro dell'incrocio, sterzò bruscamente a sinistra e, contravvenendo a ogni regolamento, cercò di superare il carro passandogli davanti. In quel momento Freddy Drummond tacque e non riprese più a parlare perché la situazione precipitò con la rapidità di un gioco di prestigio. Udì da dietro il rumoreggiare della folla e davanti ai suoi occhi balenò la visione degli elmetti della polizia e dei carri che avanzavano ondeggiando. Nello stesso istante, afferrata la frusta con l'aria decisa di chissà quel che fa, il tizio del carbone spinse i cavalli e carro proprio di fronte alla processione in arrivo. Tirò energicamente le redini e azionò il grosso freno. Poi assicurò le redini all'impugnatura del freno e si sedette, con l'aria di chi ha tutta l'intenzione di rimanere dov'è. Anche l'auto era stata costretta a fermarsi dai grossi cavalli che le premevano contro sbuffando. Prima che l'autista riuscisse a liberarsi dall'ingorgo facendo marcia indietro, un vecchio irlandese alla guida di uno sgangherato carretto aveva spinto al galoppo il cavallo, portando le ruote del carro a incastrarsi con quelle dell'auto. Drummond riconobbe sia il carretto che il cavallo, perché li aveva guidati più volte lui stesso. L'irlandese era Pat Morrissey. Sull'altro lato della strada un carro carico di birra si era affiancato a quello del carbone e a completare il blocco un tram diretto a Kearney Street avanzava con decisione, suonando la campana a tutto spiano, mentre il conducente sbraitava contro il poliziotto che tentava di regolare il traffico. E intanto arrivavano carri su carri che, ostruendo ogni possibile via d'uscita, accrescevano la confusione. I vagoni della carne si arrestarono. La polizia era in trappola. Il boato della folla crebbe sempre più man mano che i dimostranti partivano all'attacco, mentre le prime file di poliziotti cominciarono a caricare i vagoni che ostruivano il traffico. «Ci siamo», osservò con freddezza Drummond. «Sì», annuì Katrin in tono altrettanto gelido. «Sono proprio dei selvaggi». La sua ammirazione per lei raddoppiò. Era proprio il tipo che faceva per lui. Non che se si fosse aggrappata a lui piangendo l'avrebbe apprezzata di meno, ma questo suo modo di reagire era magnifico. Se ne stava seduta con tutta tranquillità al centro dell'uragano, come se si trovasse all'opera, di fronte ad un incepparsi dei meccanismi di scena. La polizia lottava per aprirsi un varco. Il conducente del carro di carbone, un omone in maniche di camicia, si accese la pipa e cominciò a fumare. Guardò con aria compiaciuta un capitano di polizia che inveiva furibondo sotto di lui, limitandosi a scrollare le spalle. Da dietro si cominciò a udire il rumore sordo delle randellate, un pandemonio di bestemmie, urla e strepiti. Un violento clamore accompagnò i dimostranti mentre sfondavano i cordoni e cercavano di tirare un crumiro giù dal suo carro. L'avanguardia corse in rinforzo del capitano di polizia e la folla fu respinta. Nel frattempo si spalancarono una dopo l'altra le finestre degli edifici sulla destra e folle di impiegati cominciarono a scaraventare su crumiri e poliziotti una pioggia di oggetti, cestini della carta, bottiglie d'inchiostro, fermacarte, macchine da scrivere, tutto ciò che gli capitava sotto mano. Su ordine del capitano, un poliziotto si arrampicò sul carro di carbone per arrestare il conducente. E questi, alzandosi lentamente, andandogli incontro con tutta calma, lo afferrò come un fuscello e lo scagliò sulla testa del capitano. E quando il carrettiere, che era un giovane gigante, si piazzò in cima al carico e cominciò a passarsi da una mano all'altra un pezzo di carbone, incerto su dove tirarlo, un poliziotto che aveva iniziato a scalare il carro da un fianco rinunciò e si lasciò ricadere a terra. Il capitano allora ordinò a sei dei suoi uomini di impadronirsi del fortino, ma il carrettiere, affannandosi da una parte all'altra del carico, li respinse con un fitto bombardamento di pezzi di carbone. La folla sui marciapiedi e gli altri carrettieri, esilarati, lanciavano urla di incoraggiamento. Il tranviere, che aveva preso a sfasciare il Metti con la barra di guida, fu colpito alla testa e trascinato giù dalla piattaforma, privo di sensi. Intanto il capitano, fuori di sé perché i suoi uomini erano stati respinti, decise di condurre lui stesso il successivo assalto al carro. Una ventina di poliziotti si avventarono tutti assieme sull'alta fortezza, ma il carrettiere sembrava essere ovunque. A volte sei o otto poliziotti rotolavano contemporaneamente sul selciato e sotto il carro. Mentre era impegnato a respingere un attacco sul retro, il carrettiere si voltò e vide il capitano che proprio in quell'istante era riuscito ad arrampicarsi sul sedile davanti. Stava ancora a mezz'aria in equilibrio precario quando il carrettiere gli lanciò addosso un pezzo di carbone di una quindicina di chili. Colpito in pieno stomaco, il capitano cadde all'indietro, rimbalzò sul dorso di uno dei cavalli e rotolò al suolo, andando a sbattere contro la ruota posteriore dell'automobile. Per un istante Catherine pensò che fosse morto, ma si rimise subito in piedi e tornò alla carica. Con la mano inguantata la ragazza accarezzò il fianco del cavallo, tremante e nervoso. Drummond però non ci fece caso, non aveva occhi che per la battaglia del carbone, mentre in un angolo della sua complicata mente un certo Bill Toots si dibatteva nello sforzo di venire alla luce. Drummond credeva nell'ordine, nella legge e nel mantenimento dello status quo, ma quel ribelle selvaggio che era in lui era di tutt'altro parere. Mai come in quel momento Freddy Drummond fece appello alla sua ferrea inibizione per salvarsi. Ma è destino che una casa, sede di discordia, debba crollare. E Freddy Drummond scoprì di aver diviso la sua volontà e la sua forza con Bill Toots e sentì che la loro simbiosi era sul punto di scindersi. Freddy Drummond stava seduto in macchina, con l'aria composta, accanto a Catherine von Forst, ma a guardare attraverso gli occhi di Freddy Drummond era Bill Toots. E dietro quegli occhi l'equilibrato sociologo conservatore e il sindacalista consapevole e bellicoso lottavano per il possesso del corpo. Fu Bill Toots, guardando da quegli occhi, a capire quale sarebbe stato il fatale esito della battaglia. Vide un poliziotto conquistare la cima del mucchio di carbone, poi un secondo e un terzo. Si tenevano a malapena in equilibrio sulla base incerta, ma già roteavano i lunghi manganelli. Il carrettiere ricevette un primo colpo alla testa, ma riuscì ad evitarne un secondo che lo raggiunse alla spalla. Ormai però non c'era più nulla da fare. Il carrettiere fece un balzo improvviso, afferrò due poliziotti per le braccia e si gettò sul selciato, senza mollare la presa. Alla vista del sangue e della brutalità dello scontro, Catherine von Forst stava quasi per svenire. Ma di fronte all'avvenimento sensazionale e inaspettato che seguì, tornò subito in sé. L'uomo seduto accanto a lei lanciò un grido disumano e bestiale e si levò in piedi. Lo vide superare di slancio il sedile anteriore, balzare agilmente sull'ampia groppa del cavallo di testa e raggiungere il carro. Fu un attacco fulmineo prima che lo sbalordito poliziotto in cima al mucchio di carbone potesse indovinare le intenzioni di quel galantuomo, vestito di tutto punto ma dall'aria piuttosto eccitata. Ricevette un pugno che lo spedì diritto all'indietro, facendolo piombare sull'asfalto. Fu immediatamente seguito da un secondo poliziotto colpito da un calcio in piena faccia. Altri tre partirono all'attacco raggiungendo la cima e ingaggiarono un titanico corpo a corpo con Bill Toz, durante il quale una manganellata gli aprì una ferita impressionante all'attaccatura dei capelli e gli furono strappati di dosso cappotto, giacca e mezza camicia inavidata. Ma i tre poliziotti vennero spazzati via e Bill Toz, rimasto padrone della fortezza, cominciò a far piovere dall'alto pezzi di carbone. Il capitano tornò coraggiosamente alla carica, ma fu messo fuori combattimento da un pezzo di carbone che lo colpì alla testa, in una sorta di nero battesimo. La polizia doveva assolutamente spezzare il blocco prima che i dimostranti avessero la meglio sulla retroguardia, mentre Bill Toz era intenzionato a resistere finché i dimostranti non ce l'avessero fatta. E così la battaglia del carbone continuò. La folla aveva riconosciuto il suo campione, Big Bill. Era come al solito in prima linea. Catherine Van Forst restò sbalordita alle urla di «Bill, dai Bill!» che si levavano da ogni parte. Pat Morrissey saltava sul sedile del suo carro gridando come in estasi «Mangiateli Bill! Falli fuori! Mangiali vivi!» Dal marciapiede udì una voce femminile che urlava «Attento Bill! Davanti a te!» Messo in guardia, Bill si sbarazzò con un paio di lanci ben calcolati degli invasori. Catherine Van Forst voltò di scatto la testa e vide sul bordo del marciapiede una donna dal colorito acceso e luminosi occhi neri fissare ardentemente l'uomo che fino a pochi minuti prima era stato Freddy Drummond. Dalle finestre degli uffici giunse un fragoroso scroscio di applausi, mentre la pioggia di sedie e schedari ricominciava. I dimostranti erano penetrati da un fianco della fila dei carri e ogni poliziotto si ritrovò circondato da un gruppo in lotta. I crumiri vennero trascinati giù dai sedili, i finimenti dei cavalli vennero tagliati e gli animali fuggirono via atterriti. Molti poliziotti strisciarono sotto il carro del carbone in cerca di riparo, mentre i cavalli sciolti, alcuni con un poliziotto in groppa, altri inutilmente trattenuti per la testa, montarono impazziti sul marciapiede opposto al blocco e invasero Market Street. Catherine Van Forst udì di nuovo la voce della donna lanciare un avvertimento. Dal bordo del marciapiede gridava «Dai Bill, tocca a te ora! Scappa!» La polizia per il momento era stata messa in fuga. Bill Toz saltò a terra e si diresse verso la donna. Catherine Van Forst la vide gettargli le braccia al collo e baciarlo sulla bocca. Osservò con curiosità l'uomo avviarsi lungo il marciapiede, un braccio attorno alla vita della donna, chiacchierando e ridendo, con una scioltezza e una disinvoltura che non avrebbe mai creduto possibili. La polizia tornò sul posto nel tentativo di far sgombrare la folla in attesa di rinforzi, di nuovi conducenti e nuovi cavalli. I dimostranti avevano raggiunto il loro scopo e iniziavano a disperdersi da soli, mentre Catherine Van Forst era ancora lì che guardava l'uomo che aveva conosciuto come Freddy Drummond. Superava la folla di tutta la testa. Cingeva ancora la donna con il braccio e lei, seduta nella macchina, seguì con lo sguardo la coppia mentre attraversava Market Street, oltrepassava lo slot e scompariva lungo la terza strada nel ghetto operaio. Negli anni che seguirono, all'Università di California non ci furono più lezioni di un certo Freddy Drummond, né apparvero altri libri di economia o sulla classe operaia, firmati da Frederick A. Drummond. Nacque invece un nuovo leader sindacalista di nome William Toz. Fu lui che sposò Mary Condon, presidentessa del Sindacato Internazionale delle Guantaie, numero 974, e fu lui a convocare il famoso sciopero dei cuochi e dei camerieri, che prima di concludersi con pieno successo coinvolse decine di altri sindacati delle categorie più impensate, dai lavoratori dei pollai agli addetti alle pompe funebri.